Che noia essere madre, che noia essere madre, che noia essere vergine, che noia essere vergine, che noia essere amante, che gioia essere amanti. Preferisco essere una fotografia, ricordo dentro un portaritratto. Che fatica essere una io tuta, ricevere il sudore, la pittura, l'unto, i rammendi e alla fine messa in lavatrice. Signor.